idea di che cosa significhi ipovisione né quali sono le malattie che la generano. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Giuseppe Venturelli, direttore generale Doxa Pharma. Buongiorno dottor Venturelli, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora guardi, il problema dell'ipovisione è un problema dai contorni estremamente sfocati da quello che abbiamo visto noi nella ricerca. È una ricerca che fa vedere come un italiano su tre non sa definire una persona ipovedente e anche tra gli altri prevale una conoscenza molto vaga del problema. Più di un italiano su due non sa indicare i criteri clinici che definiscono un ipovedente e saliamo addirittura a 3 su 4 se includiamo anche coloro che confondono ipovisione con un normale deficit visivo. Bisogna fare attenzione da questo punto di vista fra chi porta gli occhiali e chi ha ovviamente un problema molto più importante di ipovisione. Il 75% degli italiani non hanno idea e sottostimano la reale dimensione dell'ipovisione in Italia, anche perché non è facile per loro identificare l'ipovisione. Consideriamo che l'ipovisione sono le persone che hanno un deficit visivo che arriva al massimo 8-9 decimi sul globale. Quindi considerando questo e consideriamo anche che 2 italiani su 3 non sono completamente convinti che i problemi della vista si possono prevenire e curare. Ora, questi forse è un po' l'atteggiamento fatalista in qualche maniera di molti italiani che in qualche maniera pensano che ahimè con l'età, ahimè con i disturbi crescenti e il deterioramento fisico ci possono essere questi problemi di vista non facilmente curabili. In realtà sappiamo benissimo che ci sono tante cause, fra le altre la cataratta e il glaucoma sono quelle più conosciute, ma anche problemi di retinopatia diabetica oppure l'edema maculare diabetico, in particolare quindi per pazienti con diabete, che molto spesso si va incontro a degenerazioni della visione dovute proprio alla malattia del diabete. Ora, evidentemente tutti questi aspetti, conoscendoli e sapendo come affrontarli, si possono prevenire, quantomeno si possono fare cure per la prevenzione delle patologie dell'ipovisione derivanti da questi stati di malattia, come l'ipertensione, come il diabete e quant'altro. Dottor Venturelli, quindi c'è ancora da lavorare. Io la ringrazio molto per averci fotografato questa situazione. Italiani generalmente poco preoccupati dei problemi di salute e di quelli della vista in particolare. Dottor Venturelli, grazie, buona giornata. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti quanti. Fare informazione per far crescere la cultura della prevenzione è questo l'impegno della IAPB. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il presidente, avvocato Castronovo. Buongiorno avvocato. Buongiorno dottoressa Nicoletta. Avvocato, lo slogan della giornata mondiale della vista di quest'anno è "Fai prevenzione, vedi la differenza". La prevenzione infatti è lo strumento per arrestare tempestivamente soprattutto quelle patologie degenerative che possono compromettere in maniera severa non solo la salute delle persone ma anche la loro autonomia e indipendenza. Per questo la IAPB ha organizzato dei check-up oculistici gratuiti. Ci racconta, avvocato? Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità hanno proclamato per ogni anno la Giornata Mondiale della Vista, proprio per attenzionare quando più è possibile interessare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul bene della vista. In Italia la nostra IAPB sezione italiana quest'anno ha promosso, organizzato in 70 città precisamente, in 20 o 22 saremo presenti con l'unità mobile oftalmiche visitando gratuitamente i cittadini e in altre città, in 50, saremo presenti con uno stand con il nostro personale che distribuiranno opuscoli su tutte le più importanti malattie oculari. Avvocato, io ricordo, ma gli ascoltatori di Essere Benessere già lo conoscono bene, il sito della IAPB, dove potete trovare tutte le informazioni e le iniziative dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, il numero verde della IAPB 800 06 8506, a cui potete sempre rivolgervi e chiamare perché avete sempre un oculista a vostra disposizione. Ma avvocato Castronovo, quest'anno anche la riabilitazione visiva è protagonista insieme alla prevenzione della Giornata Mondiale della Vista. La riabilitazione visiva è un altro capitolo fondamentale per gli ipovedenti e quest'anno abbiamo fatto un accordo col Bambino Gesù per creare in Italia, e saremo gli unici, la riabilitazione, dottoressa, la riabilitazione per i bambini ipovedenti. Abbiamo formato il personale oculisti, ortottisti e riabilitatori e finalmente anche i bambini potranno godere della riabilitazione visiva, che è un processo meraviglioso che consente anche ai bambini di poter liberamente giocare, parlo degli ipovedenti, e utilizzare la vista nel senso totalmente positivo. Quindi con la riabilitazione anche l'ipovedente può sfruttare al massimo le proprie potenzialità. Avvocato Castronovo, non resta che salutarci e augurarci buona giornata mondiale della vista. Grazie dottoressa Nicoletta. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, vi do come sempre appuntamento a domani con Mangia con me. A domani.